Letture di Radio 24. La scorsa settimana il premier Mario Monti è tornato da Bruxelles dopo aver ottenuto tutto quanto si era prefisso: scudo antispread, unione bancaria, golden rule per gli investimenti e 120 miliardi di euro per la crescita. Lo stesso Monti è intervenuto al Senato e alla Camera per ringraziare il Parlamento del sostegno ricevuto. I partiti incassano, ma nessuno sa dire se Monti sia più di centro-sinistra o di centro-destra. Forse perché non è né l'uno né l'altro. Mario Monti si sforza di fare del principio di realtà, dunque con i relativi vincoli anche di natura sociale che nessun mandato popolare lo ha autorizzato a mutare, il suo asse e degli strumenti tecnici la sua principale risorsa. Può definirla di destra solo chi dei vincoli della realtà ha deciso programmaticamente di infischiarsene o è convinto che è meglio farsi governare dall'utopia e dall'immaginazione anziché dalla competenza. Di destra, o forse bisognerebbe dire assai meglio borghese, è semmai un tratto intimamente personale della figura del Presidente del Consiglio e di alcuni suoi ministri. Un certo tono sommesso ma insieme perentorio, una confidenza anche lessicale e sintattica con le buone maniere, una certa esibita sprezzatura verso tutto ciò che sa troppo di popolare e dunque inevitabilmente di demagogia. Sa tutto ciò di destra? Equivale tutto ciò ad essere di destra? Sia pure, ma per parlare il linguaggio della nostra storia, sa soprattutto di quella destra che fu la destra storica, cioè di qualcosa che la sinistra ragionevole italiana, da Turati in poi, consapevole di vivere in un paese troppo facile preda di pulsioni plebee e di distruttivi radicalismi, si è sempre guardata dal disprezzare. E infatti, non a caso, questa tradizione si sta ripetendo oggi. Da settimane assistiamo infatti ai più vari tentativi di coinvolgere Monti in una prospettiva di centro-sinistra che guardi alle prossime scadenze elettorali e post-elettorali. Non si tratta di tatticismi o di strumentalizzazioni. Ci sarà anche questo, certo, ma c'è soprattutto la riprova dell'antica capacità e propensione della sinistra italiana a colloquiare, a stringere rapporti, a stabilire intese più o meno esplicite, anche con uomini e forze da essa lontane, anche con quelle che possono essere definite di destra. Ciò che è strabiliante e tipico dell'Italia è il fatto che invece proprio la destra politica vera, il PDL, in Monti e nella sua politica, non sappia riconoscere nulla che la riguardi, che parli alla sua cultura o al suo cuore. Nulla, e che anzi lo consideri grottescamente come una specie di suo nemico naturale, di subdolo e pericoloso avversario di cui sbarazzarsi al più presto. È qui che si manifesta in pieno la profonda anomalia della destra italiana e dell'itinerario che l'ha portata al punto in cui si trova. Forse per Berlusconi no, forse per qualche cameriere o qualche oca giuliva che gli stanno intorno lo stesso, ma per tutti gli altri, per la gran massa dei deputati e dei senatori del PDL, è verosimile che il cosiddetto populismo, lungi dall'essere una vocazione, sia semplicemente una deriva inconsapevole. Non essendogli riuscito di essere i protagonisti di alcuna rivoluzione liberale, non immaginando neppure cosa sia la durezza austera dei conservatori, non gli è rimasto che essere dei populisti, o per meglio dire, un'imitazione del populismo. E così, capeggiati da una delle massime concentrazioni di ricchezza del paese, tutti o quasi con un reddito abbondantemente sopra quello medio degli italiani, la loro parola d'ordine preferita è diventata «dagli ai poteri forti». Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Ernesto Galli della Loggia dal titolo La percezione del Premier, pubblicato dal Corriere della Sera di mercoledì 4 luglio. L'amministratore delegato di Fiat, Sergio Marchionne, ha detto che, complice la crisi del settore, in Italia c'è uno stabilimento automobilistico di troppo. È probabile che non si riferisca a quello di Pomigliano, Napoli, dove da 6 mesi è in funzione il nuovo stabilimento per la produzione della Panda. Il complesso produttivo, che fino a qualche anno fa era ritenuto uno degli anelli deboli della Fiat, è oggi il più moderno d'Europa, grazie anche al World Class Manufacturing, un modello di produzione attento all'ergonomia del lavoro. La FIOM, la rappresentanza dei metalmeccanici CGL, l'ha osteggiato da subito, sostenendo che avrebbe peggiorato le condizioni di lavoro. Fabrizio Paladini di Panorama ha varcato i cancelli di Pomigliano per parlare con gli operai e capire chi aveva ragione. Noi siamo quello che facciamo. È scritto sui muri a mo' di slogan. È scritto anche qua e là, tra le centinaia di post-it attaccati dai singoli operai sui pannelli delle proposte dei lavoratori dello stabilimento Fiat di Pomigliano d'Arco. È questa la pietra dello scandalo. Lo stabilimento che cambia e cambierà per sempre il modo di pensare e interpretare una fabbrica metalmeccanica, il modello di sviluppo del futuro, il prototipo che verrà esportato in tutta la galassia Fiat. Su Pomigliano si sta combattendo una grande battaglia. Per ora l'hanno vinta innanzitutto i 2000 lavoratori, età media 37 anni, che sono stati riassunti vedendo così terminare l'angoscia della precarietà che trasmette la cassa integrazione. A 6 mesi dall'inizio della produzione della nuova Panda, Panorama è andato a vedere come si vive dentro Pomigliano. Giovanni Albani ha 29 anni ed è in Fiat dal 2007. Ha una felpa bianca con scritto Team Leader. Sono a capo di un gruppo di 6 operai. Coordino il loro lavoro, risolvo quesiti, assegno ferie e permessi, controllo l'efficienza. Una piccola qualifica che serve per il morale. Vuole dire che l'azienda crede in me. 100 metri avanti c'è Nunzia Zeno, 38 anni, da 12 in Fiat. Sulla sua felpa c'è scritto Supervisor, un quadro intermedio a cui fanno riferimento 10 team leader. Sono molto orgogliosa. Pomigliano era considerata l'ultima delle fabbriche Fiat. Adesso è la più moderna. E io sono parte di questo successo. La prima rivoluzione è nell'organizzazione del lavoro. Una volta c'erano gli operai e i dirigenti. Adesso è stata creata una piramide con molti ruoli. A ottobre hanno chiamato un gruppo di operai della vecchia Alfa per l'addestramento. Li hanno coinvolti nella progettazione delle linee di montaggio. Hanno chiesto consigli per risparmiare fatica, per ottimizzare il lavoro e per risparmiare anche denaro. È nata la parete dei post-it, con tutti i suggerimenti per rendere il lavoro meno gravoso e più semplice. Noi siamo quello che facciamo, ripetono orgogliosamente i giovani. La nuova Panda si costruisce con 1640 pezzi, dalla rondella al sedile, dal volante al cavo elettrico. In tutte le postazioni si sono volute privilegiare l'ergonomicità e la sicurezza. Gli incidenti sul lavoro sono praticamente inesistenti e la grande pinza gialla che tiene sospesa l'auto in costruzione si muove, si alza, ruota e porta la parte in lavorazione all'altezza giusta per evitare sforzi eccessivi. Anche il lavoro muscolare è stato ridotto e dove c'è da montare qualcosa di più pesante c'è sempre l'ausilio di una macchina. Ogni operaio è seguito o preceduto da un carrellino con tutti i componenti da montare per evitare inutili spostamenti. Quanto all'alienazione da catena, in alcune stazioni dove lavorano gli operai più giovani e meglio addestrati, ogni giorno si ruota e si prende il posto del compagno per evitare la ripetitività. Altri lavoratori, spesso i più anziani, preferiscono non cambiare perché, dicono, si sentono più sicuri. Decidono in piena autonomia i team leader. Nella vecchia Alfa di Pomigliano l'assenteismo arriva a una media del 10-11%, 50 quando giocavano il Napoli o la Nazionale. Oggi è allo 0,9%. Nell'altra Pomigliano i cassintegrati aspettano. Fiat dice che se nel 2013 il mercato crescerà, sarà possibile assumere altri operai. Ma Stefano Birotti, FIOM, in cassa dal 2008, non è d'accordo. I cassintegrati sono molti di più, nonostante avessero detto che saremmo stati riassorbiti tutti, e quelli che sono rientrati lavorano in condizioni ben peggiori di prima. Mario Di Costanzo, FIOM, in cassa dal 2009 a 0 ore, rincara. L'accordo firmato dagli altri sindacati non è stato mantenuto perché non hanno garantito il livello di occupazione. La cassa terminerà e noi andremo in mobilità, cioè saremo licenziati. Dov'è il piano Marchionne che parlava di 20 miliardi di investimenti? Avete ascoltato la lettura del reportage di Fabrizio Paladini, Pomigliano, viaggio nella fabbrica che doveva ridurre gli operai in schiavitù, pubblicato da Panorama del 28 giugno. La Russia esercita da sempre una forte attrazione sugli occidentali, a partire dagli studiosi di letteratura. Forse perché il mondo di Dostoevskij e Tolstoi è insieme vicino eppure distante da noi europei e ancora di più dagli americani. Ci guardiamo, siamo simili e poi non ci capiamo più. Lo stesso pensano, a ben vedere, anche gli stessi russi. Perché vi interessate a noi quando avete tante cose vostre ancora da capire? Se non ricordo male, il mio insegnante di matematica alle superiori una volta ci ha detto che la dimostrazione del fatto che 2 più 2 fa 4 era una cosa talmente complicata che nessuno di noi probabilmente sarebbe stato in grado di dimostrarla. Facevo ragioneria e il mio insegnante non aveva molta stima delle nostre capacità matematiche, ma quel fatto che ci sono cose che tu sai di sicuro o che credi di sicuro di sapere e non sei capace di dimostrarle è una cosa che a me è restata anche dopo che ho finito le superiori e che potrei applicare alla maggior parte delle mie convinzioni. Per esempio, io sono convinto del fatto che quelli che studiano russo in Occidente siano un po' strani, per non dire squilibrati. Lo dico con affetto e includendomi nel novero degli squilibrati. E se mi chiedessero, e perché quelli che studiano russo sono un po' strani, per non dire squilibrati? Non saprei bene cosa rispondere. Cercherei probabilmente di fare degli esempi, e l'ultimo, a dimostrazione di questo assioma, è un libro appena uscito per la collana Frontiere di Einaudi. I posseduti, storie di grandi romanzieri russi e dei loro lettori, dell'americana Elif Batuman e tradotto da Eva Kampman. Secondo Elif Batuman, La montagna magica di Thomas Mann, nonostante sia un libro molto complesso, pone una domanda semplicissima. Come fa una persona che di fatto non è affetta da tubercolosi a trascorrere 7 anni in sanatorio? Da parte mia, scrive la Batuman, mi pongo spesso una domanda simile. Come fa una persona che in realtà non aspira a una carriera universitaria a passare 7 anni in un sobborgo californiano a studiare la forma del romanzo russo? I posseduti racconta questi 7 anni ed è, in un certo senso, il racconto di un'inspiegabile ostinazione. Alcuni russi si mostrano scettici, scrive la Batuman, o addirittura si offendono quando uno straniero afferma di interessarsi di letteratura russa. Ricordo ancora la gente addetto al controllo passaporti che timbrò il mio primo visto per motivi di studio. Mi suggerì che magari c'era qualche scrittore americano, Jack London, per esempio, che avrei potuto studiare in America. La lingua sarebbe più facile e lei non avrebbe bisogno di un visto. Si trovano, nel libro della Batuman, una serie successiva di ipotesi letterarie strampalate, come per esempio il fatto che lo scrittore che ha maggiormente influenzato Isaac Babel non sarebbe, come pensa Isaac Babel, Maupassant, ma come pensa Elif Batuman, Cervantes. A un certo punto, per ottenere una borsa di studio, la Batuman si inventa l'ipotesi che Tolstoi sia stato assassinato e lo vediamo partire per Jasnaya Poljana apparentemente per partecipare a un convegno di tolstoiani, in realtà per cercare le tracce di un ipotetico omicidio che si sarebbe consumato nel 1910. E qualche pagina dopo la vediamo che, pur di non dover rinunciare per sempre alle borse di studio che le permettono di continuare a studiare, parte per Samarcanda per imparare l'uzbeko, lingua che non la interessa particolarmente e che sa benissimo che non avrà poi nessuna occasione di praticare né di insegnare. E se l'esito dell'indagine a Jasnaya Poljana è il ritrovamento di una bicicletta, l'inutile corso di uzbeko ci regala alcune delle cose più belle del libro. Per esempio le parti dell'opera nella quale il poeta Navai dimostra matematicamente la superiorità dell'uzbeko antico sul persiano, o il racconto del rapporto della Batuman e del suo fidanzato con gli uzbeki. Per tutto il periodo trascorso a Samarcanda non facevamo altro che cercare di non dare soldi a gente che li voleva prendere, oppure di dare soldi a gente che non li voleva prendere. Non avevo mai letto un libro come I posseduti di Elif Batuman e quando l'ho finito ho pensato che, in un modo diverso, anch'io sono degli anni che traffico con la letteratura russa senza per questo voler far carriera universitaria e che se mai mi succedesse di incontrare Elif Batuman, credo che sarebbe la persona più adatta alla quale rivolgermi, citando l'opera numero 13 di quello stupefacente breviario della vita contemporanea che Daniele Benati ha messo insieme nel suo Opere complete di Learco Pignagnoli. Cioè, se la incontrassi, la guarderei, Elif Batuman, e le direi «Opera numero 13. Tranne me e te, tutto il mondo è pieno di gente strana. E poi, anche te sei un po' strana». Avete ascoltato la lettura della recensione di Paolo Nori del nuovo libro di Elif Batuman, «I posseduti. Storie di grandi romanzieri russi e dei loro lettori». L'articolo è pubblicato dall'Inserto domenica in allegato con Il Sole 24 Ore in edicola oggi.